Avanti Gian. Attenzione, canale 10, cambia. E non so più in casa. Ciao. Falcone, ben sentito, dai. La gioia a due, invitati. Oh, dai, non c'ho niente di che, dai. Ho fatto pollo oggi. Ho detto, faccio pollo arrosto. Ma... chi è che vuole entrare? Avanti. Falcone. E se vuole dare abbondanza a lui. Oh, no, c'era una portanza, non so se dici tu che non sei uscito. Tu ripresi, da voi rilassi dallo gioco. A cercare con i piedi. Boh, entrare in punta di piedi nella casa. Ah, hai già compreso. Mamma di Dio, che la sata San Gavino ci porta pane e vino. Oh, no, io no. No, io sono sassarese perché mia madre è sassarese ma mio padre è di Milano. No. E vabbè, sempre vissuto a Sassari, sono nato a Sassari, però mio padre era di Milano. E hai sentito l'accento? Tu calosi, mia Tattalina, esci da pizza, avanti Tattalina. Ciao, dai. Sto preparando roba per pranzo, dai. Sentiamo dopo, riascolto. Ehi, ehi, dai, buona carica quando la fai. No, io già, oggi è furrato, oggi il pollo vuole patate, e basta il pollo. No, a Natalino lo sto dicendo, anche a te, e paga la Reci. A chi ti sei che andiamo a mangiare oggi? Non è che una di così là. Falco, e Natalino sta preparando la roba per mangiare, deve cucinare. La domenica tocca a lui. Sì, è solo di basilico. No, io ne mangio ben poche patate. Mi piace la patata. E allora, E anche a te non ti piace le patate? Sì, no, a me, io ne mangio poche perché non posso mangiare molto carboidrati. Ne metto qualcuna col pollo arrosto. Perché la mangiano mio nipote e mio figlio, che vengono a pranzo oggi, quindi l'ho messa più per loro che per me. Io ne assaggio due e basta, non è che posso mangiare assai, se tu li abiti. E a chi si è arrivato lì dai due? Che ne intende, ne intenda. No, ma vabbè, dopo la patata te la dimenti. Avanti. Entro, mi piace la salsina, ti tiro. Avanti. O Falcone. No. Ma coraggio compreso. Avanti la vita. A mare sto uscendo. No, no, non sto uscendo mai. Buongiorno comunque. Buongiorno anche a Don Giuseppe. È che si intende il televisore o radio, cos'è? Non lo so. Ah, televisore. Fuori di una bella antenna. A chi l'ha detto? C'è. È passato, c'è anche Luca che le fa le antenne, quelle 600, Luca Flipper le fa. Non lo so, io non, le misure non le conosco, però ci sono anche su internet. Se prendi una canna da pesca, ti muore un filo dretto, e la cosa sta andando, capito? Non fa la carica, coinvolgimento sotto. Avvio. No, Luca le fa a parte di iscriversi, mi pare le vendo 80 euro, una cosa del genere. Le fa per la 27. E vabbè, ma c'è tanta gente che si improvvisa e magari le va male. Danni, buongiorno, Gian Maria, buongiorno. Bene, sto uscendo? No, Gian Maria, sta uscendo bene, ciao. E il fatto che si sentiva al televisore dietro cos'era la radio, lo sei comprendi a ruta, fammi dare tu e sentiti a buru la radio o il televisore che fosse. No, ci avevo provato, il microfono evidentemente si pigliava tu, tutta la bombetta. E vabbè, importante che adesso sia a posto. Buongiorno anche a Antonio Giuseppe. Antonio Giuseppe, lo senti a Giovanni? Degli ricoglioniti dei CP della provincia di Sassari. Gian Maria, buongiorno. Ciao, buongiorno, ben sentito, dopo un secolo è. Cadè che si vengono la bagna della salsina? È proprio così, beh, il tempo passa per cui ogni cosa giamba, va bene, già riprendi, dai. E stavo provando il microfono, per cui vi saluto, dai, ci sentiamo un altro momento. Ciao a tutti, salutoni, ci sentiamo, vai già. Gio Mari, cosa stai usando di apparecchio? Cos'è? Garas? Il 7009. Ah, bello, bello, una bella modulazione, ma l'eco suo è? Come? L'eco il suo è? Esatto, è un microfono normale, sì. Va bene, è una bella radio. Anche un bel forte, il fatto è quello, è molto forte. Ma comunque, è abbassato appena, ma ancora meno. È a zero, come battaglia, a zero, proprio a zero completamente. Non ho messo niente, c'è solo l'eco. Suo per quello lo posso abbassare già. Dovresti parlare piano di modo che ti si capisce bene, dai. È più lento devi parlare, se parli troppo in fretta si sovrappone. Ma comunque è molto bella la radio, è molto limpida. Che fa piacere, dai. Va bene già, grazie di tutto. Ci sentiamo, ciao Antonio, riprese, dai. E allora è meglio adesso che si è rilassati. Ciao Giovanni, ci sentiamo. Niente, è così, il tempo passa e poi piano piano bisogna mettere da parte un po' di roba. Non si possono fare più le stesse cose. Io lo stesso, qualche cosa, qualche attività che facevo l'ho lasciata accantonata. E basta, non si occupa di andare a piccare, non si occupa di servizi ambulanza e tante cose che diciamo le ho lasciate un po' indietro. Mi hanno anche chiamato per vedere se rientravo a fare servizi ambulanza, non ho più gara, voglio regalare i pilari, ora che su verbo le prendi male. Sì, diciamo che poi la vita è salita, è normale, no? Prima ci sono problemi piccoli e poi ci sono problemi grandi. E la vita va sempre in salita, prima è farata da buona azzata, sempre. Cos'è che vai? Ah, boh, a me, ma te sì. Mi hanno operato un femore, ma mi rende là, sta dolori. Aspetta che c'è qualcuno che sta chiamando. Avanti, chi chiama? Francesco, non so da dove tu stia modulando, ma arrivi bassissimo, sei livello QRM. Io ti ascolto, ma ti sento molto basso. Avanti. Ma dove ti trovi? Ah, ho capito, assedoli, dai. Io sono a Sassari. Ma forse è altri Giuseppe, la cosa che è su. Ho capito, dai. Ma è sempre modulato da Senoli. Rimettiti in sesto, cerca di metterti una bella antenna. Il baracchino non è che conti molto, ma l'antenna è quella che conta. Poi la zona di Sellori è buona, specialmente se c'è la zona alta, dove c'è la pasticceria, come si chiama? Vabbè, da Uccio, dai. Lì, capo, quella zona lì è bella. Cava. Avanti, Monte di Giuseppe. Quella pasticceria lì c'è ancora, come si chiama? Margherita Tulipano, non me ne ricordo più, da Uccio. Come non ti senti da sempre? Ed è in qualche zona negativa. Tutto qua. Ehi, adesso lui è da 7 anni che l'ho detto, però da un bel che chiacchierava, capisco già. Già me lo ricordo a Sacramento, me lo ricordo, sì. Sacramento, te lo ricordi tu di doppio rumbo? Capa, ciao Sacramento, ci sentiamo, dai, a Trinza, di fate TD. Avanti, Adelio Luzè. Ciao Sacramento, buona giornata per tutto, saluto alle persone che sei tu che sei tu. Buona domenica. Gianni, quindi mi stavo dicendo delle fare fatto buone, Carruccio, no? Il giro alla pasticceria. E Carruccio ha poco, hai avvocato, ma da cui vai distato, no? Sì, ma non me lo ricordavo il nome. Quello ci riforniva a noi, Cuccio, in gamba, una persona in gamba. Ci forniva a noi le paste dove lavoravo. Quello era tu, la circonvallazione, la zattera, l'energia, l'inglese di Zennari. Sì, è in azzata, in Chivi. E lì se quella zona lì di Sennori dovrebbe uscire forte, non lo so che zona è di Sennori. No, ma secondo me lui sta uscendo con la scena della macchina, quindi se la macchina sarà in qualche punto, anzi se è stata io nel comune di lui, Augilio, tenne tutto il gioco della denara. Lì va bene. Adesso sono tanto tempo che non ci vado, prima andavo col camion a prendere le paste, i periodi pasquali, che finivamo la roba, subito mi mandava, vai prendi un po' di pasta, un giro, corri, e andavo, prendevo la roba, pasta e tutte queste cose qua che andavano bene, capito, quel periodo. E anche papà sì, tutte queste cose qua, il periodo dei santi, dei burri. Già stava dalla mano, non lo so così, che è sempre guadagnando molto prima il video, non lo so, che sono andato a fare un po' più, tre volte a comprare, poi la logistica, ma a dare una segnalistica, ma le logistiche no, già. Ma c'è anche a Sorso la pasticceria, vabbè. In Sorso parlano di tutti, in Sorso se ne trovo un 4-5. E non sono buone. Ma sono un amante di queste cose io. Mi dici un vermicello che mette sul canto, un canonaro, ma a livello di rotta mi amarezzo, quanto amarezzo un rubino hanno inviato. Vabbè. Ma manco io sono molto di dolci, mi piacciono le paste con la crema, quelle sì, però butto orte, tutte queste cose qua, e le formaggine, i cagiardini mi piacciono. Le formaggine si chiamano, i cagiardini si chiamano le formaggine, no? Poi ci sono le ricottelle che sono fatte di ricotta e quelle non è che mi piacciono tanto, mi piacciono più formaggiate. Qui ci sono le ricottelle e le cacciatelle. E le cacciatini. Non ammazza, ragazzi. Avete un negozio di una costante della fine in via del San Francesco, ma come ancora il suo busto ce l'ha? C'è una di che busto. Non ammazza, ragazzi. Tu pochi da via o già. Quello lì era bravo, Quello già era bravo a aggiustare. Vabbè. Adesso non c'è più. Come si chiamava? Puma, non Puma. Boh, non me lo ricordo. Ragazzi non metta più. Ero una di noi che va a vedere in mia pesata, che era uno, via. Che cattiva questi guai, ragazzi, non la macchina vai. Prima il canale dove giravi era tutto pieno di gente, c'erano anche 30 persone in un canale. Avevi riparato la scelta. Ma dovevamo dire che il gioco di amore è più importante, ha trovato la busta, lo faccio. quello lo facevano sempre. E vabbè, bisognava adeguarsi. Adeguarsi bisogna adeguarsi. Ascolta, io mi sto attrasando all'una meno 10, perché la palla mi va sempre buono, però se no mi dispiace già. E ancora è forno il pollo. Sentite il profumo da no? Vabbè, allora sarà per un'altra volta già. Se devo lasciare perché devo lavare il piatto di ieri notte. Capito? E quindi devo fare due cose, lavare il piatto e preparare. Ehi, andate, dai, roba buona e vai oggi. Più buona di chi sei fatto tu. Avanti il lugare, cosa devo prendere oggi? Perché se faccio affetti, carciuffi, carciuffi, patate, e poi c'ho una ragostina da mezzo chilo. Non ti sei trattato male. Vabbè, bisogna essere la pensione tra l'altro, ma mangiamolo, non fa pure l'imbarca. Lo so, ma con la pensione tutti questi cose sono i compareggi, tu che sei ricco. Dipende, quando mai non riesci a cassare lì, vuol dire che hai visto che fa un altro. Allora, Fabio, allora, ci sentiamo là che vado anche a dare una mano. E mandiamo. Ciao, ciao Gianni, buona domenica e buon tutto, alle prossime, ciao. Ciao, ciao, ci sentiamo, Falcone.